buonasera a tutti e tutti, è 36ª puntata di Uru, la trasmissione di Radio Wombat, su suoni, musica e notizie dal continente africano, in onda appunto tutti i venerdì alle 21.30 e in replica la domenica alle ore 15 e lunedì alle ore 10. Vi ricordiamo i social di Radio Wombat, innanzitutto appunto il sito da cui state ascoltando lo streaming, da cui potete anche riascoltare le trasmissioni precedenti sia di Uru sia di tutte le puntate di tutte le trasmissioni di Radio Wombat, appunto andando nella sezione podcast del sito, che è wombat.noblogs.org. L'account Twitter è twitter.com/radiowombatfi. La posta per comunicare con noi è postawombat@insiberia.net. Stasera qui a Uru una trasmissione particolare, una cosa diversa dal solito. Sì, non è stasera non c'è un genere musicale definito, non ci sono neppure interpreti da nazioni, da paesi o comunque da zone dell'Africa ben definite, ma bensì delle collaborazioni. Sono tantissimi i musicisti africani che hanno collaborato, o viceversa i musicisti non africani hanno lavorato musicisti africani, tra i più noti per esempio Ray Cooder con Ali Farka Touré, oppure Peter Gabriel con di volta in volta svariati musicisti, in particolare Peter Gabriel con svariati musicisti sudafricani. Quelli che vi proponiamo stasera sono delle collaborazioni un po' atipiche, un po' particolari, però la dicono lunga sulla quanto incida la musica africana e gli interpreti africani, quelle sono diciamo i riferimenti musicali di musicisti non africani, in particolar modo europei e americani e del nord, diciamo del Nord America. E iniziamo subito con un primo pezzo. Il primo pezzo è Sheikh Karimiti, di cui abbiamo mandato un brano in particolare nella terza trasmissione di Uru, quella dedicata a Ray, proprio perché Sheikh Karimiti è una, se non la principale, diciamo la pioniera del genere Ray, quella diciamo ha operato il passaggio dalla musica più tradizionale algerina a quello che è la musica moderna e quindi al Ray. Un soggettino, diciamo così, ostracizzato in patria, specialmente, o meglio, ostracizzato durante gli anni Ottanta, quelli diciamo in cui l'Algeria era la scena politica e sociale algerina era dominata dall'integralismo islamico, proprio perché Sheikh Karimiti ha sempre parlato nelle sue canzoni della vita popolare, dell'alcol, della sessualità e anche per un lungo periodo anche della guerra, o meglio della guerra di liberazione, essendo stata una delle delle fiancheggiatrici sonore, diciamo così, le fiancheggiatrici culturali dell'FLN algerino, il Fronte di Liberazione Nazionale. E in questo pezzo che si intitola Lilet El Houda, che è tratto, diciamo che è una traccia del primo CD che è del 1995, che si intitolava Mansouri. E durante la registrazione di questo CD sono state non rilasciate nel CD tre tracce: Mendil Chel Haseb, Ra Yabki, che a sua volta ha due versioni, la Strict Miss e la Dium Miss, e appunto Lilet El Houda. E la particolarità è che collabora con lei in questi quattro pezzi, a cui appunto le ha tolto Robert Fripp, polistrumentista e compositore britannico, fondatore del King Crimson e poi compositore della stragrande maggioranza dei materiali del gruppo, insomma uno degli strumentisti più originali, diciamo, del rock, ecco. In particolar modo in questo brano sono la chitarra elettrica. Insieme a lui e insieme a Sheikh Karimiti c'è Flia, musicista, bassista e cofondatore diretto di Chili Peppers, e Raymond John Pepperell, o meglio conosciuto come East Bay Ray, chitarrista a sua volta, che ha militato, possiamo dirlo proprio in questi termini, ha militato nel gruppo hardcore, punk hardcore dei Dead Kennedys, il cui suo stile comunque era influenzato dalla surf music e dai rockabilly. Quindi ci troviamo un pezzo in cui c'è una cantante algerina, direi, nata nel 1923, che ha sfornato su cassetta e vinile 45 giri, centinaia di composizioni di pezzi, che incide il suo primo CD nel 95 all'età di oltre 72 anni, e ci sono tre tracce non rilasciate nel CD, ma comunque rilasciate in seguito come mini album, che insieme a questa punta algerina, tanta algerina Raid del 1923, troviamo Robert Fripp, chitarrista anche dei King Crimson, Flea, il bassista di Red Hot Chili Peppers, e East Bay Ray, a sua volta chitarrista ex chitarrista Dead Kennedys. Quindi vi facciamo ascoltare il pezzo. يا ظالم الواحد في الأديان بالعانية يا يا يا يا يا يا يا يا يا هو الهمي والدر والهمي علمة I'm abbiamo già parlato della strategia italiana e europea sulla migrazione dall'Africa, ma una denuncia della CNN, un servizio approfondito, un'accusa delle Nazioni Unite in Niger che si rivolge alla Corte internazionale, naturalmente fanno scalpore. Ma ciò che accade in Libia lo sapevano tutti anche da prima. Il ministro Minniti, padre della strategia italiana sull'immigrazione, aveva con enfasi dichiarato: sui diritti umani ci metto la faccia. Adesso sappiamo che faccia. L'Europa sta condannando migliaia di migranti alla schiavitù, alla tortura, le donne allo stupro sistematico e molto spesso, per tutti, alla morte. La strategia antimigranti italiana prevede la costruzione di un muro virtuale nel Mediterraneo davanti alle coste libiche, un muro che fermi i migranti, li faccia catturare dalla guardia costiera libica, che abbiamo addestrato e a cui abbiamo dato anche le imbarcazioni, e li faccia finalmente ributtare in quei famigerati centri dove tortura, vessazione e violazioni sono quotidiane, ma lontane dagli occhi dell'Europa e dalla faccia di Minniti. Per tutto questo l'Italia aveva bisogno di una milizia che facesse il lavoro sporco. È stata trovata nella milizia di un signore che si chiama Ahmed Dabbashi, soprannominato lo zio, che controlla la città di Sabrata, da dove negli ultimi anni sono partiti tutti i migranti che hanno raggiunto le nostre coste, e si intasca i lucrosi proventi che noi, in quanto italiani ed europei, li diamo due volte. Pare, e ci sono svariate testimonianze di questo, che attraverso solo l'Italia gli siano arrivati alcuni milioni di dollari perché fermasse il traffico, anzi perché consegnasse alla guardia costiera libica i migranti che volevano partire. Si parla di un numero pazzesco, circa 40.000 migranti, secondo stime attendibili, sprofondati nelle galere libiche con il consenso di Europa e Italia. Cioè, una cifra veramente pazzesca, e fa schifo che sui giornali mainstream, tipo Repubblica di qualche giorno fa, ci fosse una foto di un carcere libico in cui si vedeva una stanza piccola con 40-50 persone ammassate dentro e Repubblica che si mostrava costernata e dispiaciuta. Eh sì, ritorniamo ai suoni dell'Africa, in questo caso i suoni dell'Africa con contaminazioni, con collaborazioni di paesi extraafricani, siamo soliti dire extraeuropei, in questo caso extraafricani. Ricordiamo anche comunque che tutti i pezzi che proponiamo sono pezzi africani, nel senso che sono stati incisi da musicisti africani che li interpretano anche in questo caso, e appunto, e sempre in questo caso sono cantati insieme ad altri, insieme appunto a quelli che con loro collaborano. E dopo un'algerina, un inglese, un australiano e un americano che cantano insieme un pezzo, diciamo un rai, o comunque insieme originariamente un pezzo rai, passiamo a un pezzo di Capoverde, diciamo. In questo caso è Cesaria Evora insieme a Bonnie Wright. Anche di Cesaria Evora abbiamo dato non solo in una trasmissione, in svariate trasmissioni, in alcuni pezzi. Cesaria Evora è probabilmente la cantante, anche è sicuramente la cantante più conosciuta di quello che è a sua volta il genere musicale più conosciuto di Capoverde, cioè la morna, questa sorta di blues, diciamo così, in cui oltre alla particolare oltre a un particolare stile musicale c'è anche testi particolari, nel senso che molto spesso parlano appunto di questa sodale, di questa nostalgia, diciamo, essendo Capoverde una terra di emigranti, in particolare di moltissimi emigranti, Capoverde, questa nostalgia per i paesi nativi. In questo caso appunto abbiamo Cesaria Evora che interpreta Crepuscolo Assolito insieme a Bonnie Wright. Bonnie Raitt, a sua volta conosciuta come la baronessa del blues, diciamo, e anche se inizialmente cantava, reinterpretava pezzi folk, country e rock, progressivamente nel corso degli anni ha cominciato a interpretare brani composti proprio con noi. Di lei ci ricordiamo in particolar modo le lotte per i diritti civili contro la guerra in Vietnam, in particolar modo negli anni 60 e 70, ma tuttora continua a impegnarsi nel movimento ambientalista contro l'energia nucleare, la devastazione del territorio operata dalle industrie minerarie, oltretutto aderisce anche al comitato per la scarcerazione di Leonard Peltier e Mumia Abu Jamal. Ci sentiamo quindi Cesare Evora insieme a Bonnie Raitt, il pezzo è Crepuscolo al solito. Vento di mare, trazemo un crecero, nesta tardinha di seu nublado, un chuva di amor pode fazer florir un coração queima de paixão. Na patamar, na patamar, dúvida singela, dúvida singela, me encontrar, encontrar, dona felicidade, dona felicidade, nenhum olhar, me encontrar, me encontrar, no multidão, no multidão. Tão solitária, tão solitária, já tem gente, já tem gente, gente a te demar, gente a te demar, tita sofrer, tita sofrer, na solidão, na solidão, já tem gente, já tem gente, tá quase a morrer, tá quase a morrer. La luz de un crepúsculo, crepúsculo, ya te llegué, ya te llegué, gente a te demar, gente a te demar, tita sofrer, tita sofrer, na solidão, na solidão, ya te llegué, ya te llegué, tá quase a morrer. Está morrendo na luz cadê, na luz cadê, de um crepúsculo, de um crepúsculo. Nesta tardinha de seu nublado, chuva de amor, chuva de amor, pode fazer florir, pode fazer florir um coração queima de paixão, queima de paixão. Na patamar, na patamar, dum vida singela, dum vida singela, me encontrar, contemplar, dona felicidade, dona felicidade, meu olhar, me encontrar, no multidão, no multidão. Tá tão solitária, tão solitária. Já tem gente, já tem gente. Gente até demais, gente até demais. E tá sofrer, tá sofrer. Na solidão, solidão. Já tem gente, já tem gente. Tá quase a morrer, tá quase a morrer. Na luz cadê, na luz cadê. Dum crepúsculo. Já tem gente, já tem gente. Gente até demais, gente até demais. Que tá sofrendo, que tá sofrendo. Na solidão, na solidão. Já tem gente, já tem gente. Tá quase a morrer, quase a morrer. Na luz cadê, na luz cadê. Dum crepúsculo. Dum crepúsculo, dum crepúsculo. Sono già 8 i Rangers del Parco Nazionale del Virunga nella Repubblica Democratica del Congo ad essere stati brutalmente uccisi dall'inizio del 2017. Gli ultimi in ordine di tempo sono 3 assassinati ad agosto scorso durante un controllo di routine all'interno del parco. Parco antico, fondato nel 1925 e dal 1979 considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Sono circa 7.800 chilometri quadrati di estensione dell'area verde e vi sopravvive una fauna peculiare. E in particolare le misure di conservazione messe in atto negli ultimi decenni hanno fatto sì che si potessero mettere in sicurezza gli esemplari rimasti dei rarissimi gorilla di montagna. Tutto ciò avviene perché proprio grazie ai Rangers congolesi e che si occupano del mantenimento, della sicurezza, della guida dei turisti che raggiungono i Monti Virunga. Tuttavia la guerra civile e le tensioni all'interno del paese mettono a repentaglio la sopravvivenza di chi ci vive e anche del parco. Di fatto l'impressione è che tra gorilla, elefanti, okapi e altre specie protette si stia combattendo una vera e propria guerra tra chi lavora per conservare un patrimonio globale e chi negli alberi vede soltanto una risorsa da poter sfruttare, in particolare le multinazionali del petrolio, che da tempo cercano di metterci le mani. Naturalmente in tutto questo sono i Rangers a rimanere schiacciati nel mezzo, e sono l'ultimo baluardo che rimane. Il parco è stato riaperto nel 2014 dopo un anno di chiusura con la speranza di creare posti di lavoro grazie alla struttura naturalistica. L'idea era di offrire un percorso basato sulla riduzione della povertà e la tutela dell'ambiente. Inizialmente il progetto aveva funzionato, le sistemazioni erano piene, i turisti provenienti specialmente dall'Europa e Stati Uniti avevano avuto l'opportunità di incontrare i gorilli di montagna e scalare il vulcano Nyiragongo a 3.470 metri sul livello del mare, dove si trova il più ampio lago vulcanico del mondo. I Rangers accompagnavano i turisti, andavano addirittura a prenderli all'aeroporto per la sicurezza e tutto quello che veniva guadagnato veniva reinvestito nel parco con l'auspicio di innescare un circolo virtuoso. Il problema però è che l'aggravarsi della crisi politica, i bracconieri, sono stati deleteri e quindi i turisti spaventati calano sempre di più e quindi questo apre il campo alle speculazioni. Tant'è che per esempio durante un turno di lavoro un ranger ha iniziato a notare alcuni movimenti sospetti, auto non autorizzate, persone che non erano turisti. Si trattava appunto degli operatori della multinazionale Soco, una multinazionale del petrolio, intenzionati a sfruttare le risorse del parco. Questi, senza permessi, senza niente, avevano cominciato a distruggere la foresta e il ranger, che li ha visti spiati, seguiti, li ha denunciati e quindi questi qui gli è toccato scappare dal Virunga, l'hanno lasciato. In compenso però questo ranger è stato arrestato tra virgolette, insomma è stato rapito e torturato per 17 giorni prima di essere rilasciato. Tant'è che il parco l'ha spostato in un altro parco, nel parco di Opemba, per cercare di salvargli la vita. Quindi un parco importante per la vita intera del pianeta, perché è una delle riserve naturali più importanti e in pericolo, specialmente per le multinazionali. Un evento particolare, una serata particolare, venerdì 1 dicembre al centro sociale autogestito Next Emerson in via Villaggio 15 a Firenze, chiaramente. Venerdì 1 dicembre alle 20, appunto, una ribollita fatta a modino e dolci autunnali. Alle 20, alle 21 la presentazione di Scarceranda 2018 e alle 22, una particolarità, una performance di cinema reinventato e artigianato in pellicola, performance effettuata da Tele MTK di Grenoble e da Gruppo 70 FPS di Napoli. Ecco, qualche particolare in più è che Scarceranda, la cui presentazione appunto è alle 21, è un'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa fin dal 1999, il cui motto fin dalla nascita è contro il carcere e perché di carcere non si muoia più. E appunto c'è la presentazione dell'agenda 2018 e tra l'altro l'agenda poi sarà in distribuzione al centro sociale di Next Emerson o comunque può essere richiesta anche tramite spedizione postale. Mentre invece l'Atelier MTK, uno storico atelier, un laboratorio cinematografico artigianale che dal 1992 inventa nuovi strumenti per mettere in scena e sviluppare una diversa pratica di cinema. E dalle 22 del 1 dicembre al CSA Next Emerson metteranno in scena 4 live performance con proiettori a 16 mm modificati. PVE, pronostica Vital Engage, Wave Behavior, Stromboli, Left Hand, questi sono i titoli in inglese, il 40 AEW, ma comunque per tutte le notizie, le particolarità di queste proiezioni potete andare al sito del CSA Next Emerson, che è www.csaxemerson.it. Vediamo appunto il 1 dicembre alle 20 si mangia, alle 22, alle 21 c'è la presentazione di Scarceranda 2018 e alle 21 e dalle 22 la Telemetri K di Grenoble in Francia appunto e il gruppo 70 FPS di Napoli proporranno questa performance di cinema reinventata e artigianata in pellicola. Successivamente una Gargamella che proporrà atmosfere, musica, strumenti antichi contaminata diciamo da sonorità più moderne. Ritorniamo alle nostre, alle nostre collaborazioni e dopo un pezzo di musica Rai, diciamo un brano musicale di Fado. Andiamo ora a un brano rap, ecco, in questo caso abbiamo Brace che è un rapper nigeriano, o come si autodefinisce, non solo rapper ma anche poeta e storyteller, cioè cantatore, raccontatore, canta storie, racconta storie, che incide questo pezzo musicale insieme a Ahsan Kiros Tai, che sono un rapper, uno è statunitense e l'altro è inglese. Brace è noto per portare la sua musica, diciamo, e attraverso la sua musica un'educazione sociale, diciamo, basata sulla condivisione dei saperi e via dicendo, specialmente anche nelle scuole, in particolare nelle scuole pubbliche, diciamo. E appunto Brace è l'acronimo e significa anche Brilliant Rappers Educate Intelligent Student. Il brano che ci ascoltiamo è Right Here In Front Of You, Ahsan Kiros, Tai e Brace. Watch the drummer sing rum pa pa pum pum. Love where I come from, rise above the humdrum. Mainstream, can I piss in the puddle? Then represent a bug like a kiss and a cuddle. Far away from the dirt and the grime. It's not every day I wanna hear the hurt and the crime. The stabbing, the killing, the poverty, the pain. This is real to me, not just a tune I obtain. Tony Allen gave me the opportunity to come into your life a little sooner. Free like a bird or a butterfly. I'm not yet, but I'm here and I'm gonna try to bring a mountain to my humming. Sometimes I get bitter, but I swear I learned from it. The rumors in my mind will never stop spinning. The opening act like I'm top billing. I'm not willing and I'm very hot spilling. Cement that will fill up any crack, God willing. Say what you wanna say, do what you wanna do. The revolution is right here in front of you. With more support than a big girl girdle, I catch a sunshine cap while you leapfrog hurdles. Touche your way like a touche turtle. One drop a cold verse to let your bloodstream curdle. Say what you wanna say, do what you wanna do. The revolution is right here in front of you. Right here in front of you. World music tonight, now what you wanna do? Say what you wanna say, do what you wanna do. The revolution is right here in front of you. Right here in front of you. World music tonight, now what you wanna do? We deliver gems from the River Thames to the river Nile. With a smile, ejecting my sorrow for a while. Breeze electrify, tie intensify. Putting sleep to sleep like a sensor fly. Let me stretch the sky, etch my eye in your vision with precision when I testify. The heroes in the song, unsung by the gallant. Breeze raising the drums of Tony Allen. That's all you be when you check the way I set up. Spies falling from sky self, no go get up. Mommy traveled over 3,000 miles to turn 3,000 tears into 3,000 smiles. 3,000 files, family and friends invited to dinner, so I happily attend. And then I send this one to my people back home. It's Breeze on the microphone. Say what you wanna say, do what you wanna do. The revolution is right here in front of you. Right here in front of you. World music tonight, now what you wanna do? Say what you wanna say, do what you wanna do. The revolution is right here in front of you. Right here in front of you. World music tonight, now what you wanna do? My vibe alone eats suckers for breakfast. You might even regret this if you're a listener. Panic alarm, call the commissioner. Let's get it straight like a hair conditioner. Losing my mind, can't trust my eyesight, better off blind. I think you'll find that this style is critical. 10 naked girls in my room, still miserable. Don't need punchlines, you're only going one stop. Every syllable was a punctured lung gunshot. The bum note in any damn choir. Send me out for wood, I come back with more fire. Technically speaking, I'm a dodecahedron plus. You shiny beacons must not try and lean on us. Anger, the only thing in us you can provoke. Too many headlights caught up in my antelope. Street marching and I don't have to tiptoe. Carbon dioxide up against my window. I'm only wrapping my fingers on your windowsill. Watching your World Cup, we're forced to win it like Brazil. Not many heroes are unsung. Try and test the group, end up in the soup like one ton. That's like trying to fight an army with one gun. You get a burner and that don't mean a bun, son. Say what you wanna say, do what you wanna do. The revolution is right here in front of you. Right here in front of you. Right here in front of you. Say what you wanna say, do what you wanna do. The revolution is right here in front of you. Right here in front of you. Right here in front of you. Tony Allen in the house tonight. T.Y. in the house tonight. Africa in the house tonight. Breeze in the house tonight. Unsung in the house tonight. Tony Allen in the house tonight. T.Y. in the house tonight. Breeze, Unsung in the house tonight. Come on. Thank you. condividiamo in anteprima e siamo lieti di farlo in questa trasmissione. Poi ne riparleremo via via avvicinandoci alla data della festa per il primo compleanno di Radio Wombat. La festa sarà il 16 dicembre al CSA Nestemerson di via di Bellagio 15 e ci sarà un rapper sudafricano, Ranking Fox, con Imiruz Sound System, Dabbas Sound System più Disco Rebel Foundation. Quindi appuntatevi già alla data, il 16 dicembre al CSA Nestemerson di via di Bellagio 15 per il primo compleanno della radio, il primo anno di trasmissioni. Leonson Di Cumana è un docente di economia e soprattutto è un membro della Commissione indipendente per la riforma delle tassazioni delle imprese multinazionali e ultimamente ha scritto un articolo, è uscito in contemporanea in 12 paesi. La versione italiana è stata pubblicata da Manifesto e è stato pubblicato in occasione dell'inizio a Nairobi della conferenza sui flussi finanziari illeciti e il loro impatto sullo sviluppo dell'Africa. Un articolo lungo di cui vi riportiamo alcuni pezzi, alcuni brani. Inizia con basta con la favoletta della lotta alla povertà che i paesi ricchi continuano a raccontare. Ogni anno si prelevano dal continente, inteso il continente africano, fra i 30 e i 60 miliardi di dollari e le risorse accumulate all'estero negli ultimi decenni superano di molto le risorse andate nell'altra direzione, compreso gli aiuti e il debito, nel senso l'altra direzione nell'Africa. La storia è nota, l'Africa è povera e ha bisogno dell'aiuto dei paesi ricchi e se le potenze occidentali hanno sfruttato il continente con la schiavitù, il colonialismo, il saccheggio delle risorse naturali è stato in passato. Oggi sono generose e determinate a eliminare la povertà e promuovere lo sviluppo sostenibile. Ma questa favoletta, continua Leonson Di Cumana nel suo articolo, che i paesi ricchi ripetono alla nausea è piuttosto ingenua. Sappiamo da un pezzo che l'Africa è creditrice netta rispetto al resto del mondo. L'ammontare di risorse finanziarie accumulate all'estero grazie alla fuga di capitali negli ultimi decenni supera di molto le risorse e vanno nell'altra direzione, cioè nella direzione africana, compreso gli aiuti e il debito. Ogni anno si prelevano al continente fra 30 e 60 miliardi di dollari, come detto precedentemente, tutto ciò secondo un rapporto diffuso nel 2015 dal gruppo di alto livello sui flussi finanziari creato dalla Commissione, addirittura dalla Commissione Economica dell'ONU per l'Africa. E queste tra l'altro sono considerate stime di ribasso. In cosa consiste questa emorragia? Gli specialisti chiamano flussi finanziari illeciti. Intanto, ovviamente, si compone di attività criminali di ogni tipo, droghe, traffico di armi e via dicendo, alle quali si aggiunge il riciclaggio di denaro legato alla corruzione. Inoltre, le compagnie multinazionali facilitano flussi finanziari illeciti in uscita manipolando transazioni commerciali tramite fatture false, transfer pricing, pagamenti fra case madre e loro sussidiarie, meccanismi di elusione fiscale allo scopo di nascondere i redditi, sono pratiche comuni da parte delle compagnie e delle multinazionali nel loro sforzo di, tra virgolette, massimizzare i profitti. La fuga di capitale è un fenomeno globale, ma di recente, in un periodo di grande pressione sui bilanci nazionali, i governi e le economie avanzate, tra virgolette, hanno moltiplicato gli sforzi per combattere anche l'invasione a parte delle aziende. Ma l'impatto della fuga dei capitali sui paesi in via di sviluppo, in particolare sull'Africa, è di gran lunga più devastante. Nel continente africano le entrate fiscali sono già molto basse, in media il 17% del prodotto interno lordo rispetto al 35% dei paesi più ricchi e le autorità fiscali non hanno risorse sufficienti per contrastare strategie sempre più aggressive messe in atto dalle multinazionali per evadere le tasse. Leonson Di Cumana continua dicendo, scrivendo, il costo umano e sociale degli abusi relativi alle imposte societarie è gigantesco. Significa infatti meno risorse per le infrastrutture, per l'istruzione, la salute, l'alimentazione, la protezione dei diritti delle donne e i programmi ambientali. In questo contesto la Commissione indipendente per la riforma e la tassazione delle imprese multinazionali, cioè l'organismo di cui fa parte Leonson Di Cumana, ha chiesto alle Nazioni Unite uno sforzo per combattere l'evasione fiscale da parte delle transnazionali come parte più ampia di una strategia di lotta contro i flussi finanziari illeciti, chiaramente fino al momento attuale da parte delle Nazioni Unite non c'è stato risposta in questo senso. Ritorniamo alla musica e ci spostiamo ancora. Ripartiamo da un gruppo che vi avevamo fatto ascoltare nella puntata sul Benin, cioè la fanfara en Loye e Yonle, scusate. La particolarità, infatti, della musica del Benin è che le fanfare sono uno dei modi più si formano i gruppi musicali. Infatti la Yonle Brass Band è una delle fanfare d'ottone africane più famose del Benin. Abbracciano la life ghanese, eccetera. Questi 8 musicisti che la compongano sanno coniugare ingegnosamente l'eredità dei musicisti di feste del Benin che troviamo nelle percussioni e la musica jazzistica nelle fasce di ottone di strada presente negli arrangiamenti degli ottoni, appunto. Il pezzo che vi facciamo sentire, che è Africa Night, è cantato e suonato insieme a un gruppo francese che si chiama Les Ogres de Barbac. Sono 2 fratelli e 2 sorelle, tutti e 4 polistrumentisti. Sono francesi di origine armena, cioè i loro familiari sono scampati al genocidio armeno. I loro album sono tutti autoprodotti e hanno addirittura costituito una propria etichetta che a volte collabora con altre etichette indipendenti per fare conoscere artisti sconosciuti. Quindi Africa Night, Les Ogres de Barbac e la fanfare en Yonle. Sont très belles. Pourtant, l'on vous l'a fait, tous les gars sont très mignons. Africa, donc, on l'a fait, tous les gars sont très chers. Balançons les mains comme ça. Balançons les mains comme ça. Balançons les mains comme ça. Allez-y, partout. Sur la plage, sur la ligne, la maison, les divans, la cuisine. En Afrique, on fait toutes les filles sont bien mangées. Ce soir, c'est l'anniversaire des hommes. Africa Night. On est là avec la fanfare des Ayane. Africa Night. On espère, mesdames et messieurs, vous êtes bien amusés. Africa Night. Est-ce que tout le monde veut chanter? Oh yes. Est-ce que tout le monde veut danser? Oh yes. Est-ce que tout le monde veut bouger? Oh yes. Devant, oh yes. Derrière, oh yes. Au-dessus, oh yes. Sur le côté, oh yes. L'autre côté, oh yes. Tout le monde qui danse, oh yes. Qui bouge, qui oh yes. Se met la tête à l'envers, oh yes. Tout le monde qui chante, qui quitte. Est-ce que vous voulez chanter? 1, 2, 3, 4. Boum, boum, tchala. Yeah. E la trasmissione finisce qui. Appunto, l'ultimo pezzo era la fanfare Le Benin, Les Ogres Barbac, franco-armeni, diciamo così. E appunto vi ricordiamo i social della radio, Radio Wombat, il social Twitter, twitter.com/radiowombat.fi, la mail posta wombat @insiberia.net. E vi ricordiamo anche che Uru ha un proprio profilo Twitter che è Uru-RW di Radio Wombat, quindi se usate questo social venite a trovarci noi e la radio. E come la trasmissione anche, profilo Twitter parla di suoni, di musica, ma anche di notizie dal continente africano. Ciao a tutte e tutte, vi aspettiamo venerdì prossimo.